ragazzi, ringrazio il nostro radiofonico Coli per questo aiuto, il nostro tecnico di Exagio. Allora, buonasera radioascoltatori di Exagio, sono Enrico Liuzzo e questo è l'episodio pilota di Alma. Sarò il narratore di questo spazio e tempo e vi condurrò per un'ora e mezza circa a fare la conoscenza di questa Alma. Quindi, buon ascolto. Chi è Alma? Chi è questa figura? Chi è questo nome? Partendo dal principio, l'idea di Alma è nata quando ero in Spagna, a Madrid, e stavo girando la città con un carissimo amico e siamo andati in questo mercato al chiuso per cibarci e bere qualcosa, quando a una certa ho visto questo murales bellissimo che ritraeva un cuore realistico e su di esso c'era questo nome, Alma, scritto con una bomboletta. E sono stato, posso dire, conquistato da questo nome. Nella mia mente subito è nata una figura. Cosa vuol dire Alma? Qual è il significato di questo nome? Anima, in lingua spagnola e portoghese, vuol dire anima. È anche un nome proprio. Ebbene sì, il nome Alma, trovo veramente bello, è un nome che deriva dal latino e si pensa che derivi da almus, alma, dal verbo alo, alere, che significa nutrire. E la cosa bella è che questo vocabolo fu epiteto di divinità dell'antichità, divinità greche e romane, come Venere, Afrodite, la dea dell'amore, o di Cerere, Demeter, la dea del raccolto. E questo vocabolo Alma veniva, quando veniva usato per chiamare queste dee, veniva spesso affiancato da un altro vocabolo, quello di Mater, quindi formava questo Alma Mater, che è bellissimo, che si traduce come madre che nutre. E chiamandole così, queste figure assumevano una forma di dea dolce e gentile che nutre con affetto, con amore. Appunto la dea dell'amore, la dea del raccolto, che nutrivano l'uomo, nutrivano il mondo grazie alle piante, facevano nascere le piante, diciamo, donavano l'amore all'umanità. E trovo sia bellissima questa idea, di questo spirito, di quest'anima che pervade ogni essere vivente, che sta alla base della vita. E di come ci si può descrivere noi umani e ogni essere vivente come manifestazioni di questo amore, di questa energia, come figli di questa energia, manifestazione. Alla fine, cos'è il corpo e ogni essere vivente se non la manifestazione di un'anima, di un'energia? E sempre parlando di Alma, vedendola con altri nomi in altre culture, anche anima in latino, o anche nella lingua greca animus, che vuol dire soffio, e descrive proprio la vita, la parte vitale di ogni essere vivente, il respiro, il soffio, che sta alla base della vita, rappresenta proprio la vita. E questa è Alma. Certo, Alma è uno dei tanti nomi. Alma, anima, animus, spirito, campo quantico, Dio. Non è nient'altro che uno delle tante dita che punta all'energia, all'amore che manifesta gli esseri viventi come corpi. E in quest'anima, in quest'alma, è spesso implicita una sostanziale unità di fondo, diciamo, è come se un grande spirito, diciamo così, è bello come un mare. Ecco, la visione zen dell'anima di Alma è bellissima, per cui viene vista come un mare e noi non siamo altro che le onde di questo mare, non siamo altro che, diciamo, forme che nascono da questo mare, vive. Sono delle manifestazioni di questo mare che nascono da esso, viaggiano per poi lasciarsi andare su una spiaggia e ritornare al mare, ritornare all'unità. Quindi, come dicevo prima, bello vedere come alla base siamo tutti la stessa cosa, siamo tutti parte di un uno, di quest'anima, di quest'alma, che pervade tutto. Certo, è difficile vederla in quanto umani, quest'unità, penso, per il fatto che si pensa grazie al cervello. Il cervello è un organo materiale, fa parte di questo mondo. Per qualcosa di questo mondo è difficile vedere un'unità. È difficile vedere un'unità perché vediamo separato, vediamo diversi corpi, diversi oggetti. Non si può vedere quell'unità intrinseca dell'anima che anima tutto. Eppure è lì che... perché è ciò che abbiamo in comune, tutti noi esseri viventi respiriamo, si potrebbe dire vivo perché respiri. Ogni essere vivente respira, anche una pianta, anche un insetto, un animale. Siamo tutti accomunati da questo respiro, da quest'anima, da questa energia che ci permette di muoverci, di fluire. Infatti, bello è che anche in alcune religioni, tipo l'animismo, secondo l'animismo non solo gli esseri viventi come li concepiamo noi avevano un'anima, ma proprio tutto ciò che si muoveva, anche i fiumi. Poi non solo nell'animismo, nella mitologia greca c'erano gli dei del fiume, gli dei del mare, gli dei che stavano alla base, diciamo, erano l'anima di queste manifestazioni in movimento nella realtà fisica. mentre figurarsi in altre religioni si vedeva questo corpo che tutti noi abbiamo non tanto come una meravigliosa manifestazione dell'anima, ma più che altro come una prigione, come una tomba, un carcere. Questo probabilmente è anche magari un'interpretazione sbagliata, non lo so. Si dice che sia venisse vista come una prigione per la somiglianza tra il vocabolo soma e sema, quando il primo significa corpo e il secondo significa prigione. Quando credo che sia bello vedere il nostro corpo e il corpo di tutti gli esseri viventi, delle piante, degli animali, come una bellissima creazione, un dono. La vita è un dono. Poter essere qua, il poter respirare, il poter godere del tempo che ci è dato, di poter essere presente, di mangiare, di amare, di condividere dei momenti di felicità. Ma è un dono. È un dono che ci nutre e ci permette di essere qua. E a volte mi chiedo come possa essere in maniera diversa. Certo, credo che nessuno abbia deciso dove nascere, come nascere, ma si può dire fortuna, sfortuna. Si parla di fortuna e sfortuna quando non si sanno le cause, di dove si è nati. Se c'è una cosa bella che ho imparato iniziando a fare meditazione è quello proprio di ascoltare quest'alma, quest'anima. Ascoltarla focalizzandomi sul respiro, su di essa, sul respiro. Sia la prima manifestazione infalsificabile del fatto che ci sia qualcosa di più grande e vasto che ci unisce tutto dietro le quinte, dietro questa materia, dietro questa fisicità. E vederla così fa anche, credo che faccia sentire anche meno soli. Da un certo punto di vista, perché in un modo o nell'altro siamo tutti uniti, siamo tutti anima, un po' come in Avatar, che c'è Ewa che collega tutto, che pregna le piante, gli animali, pregna questi alieni blu. Neanche gli uomini, non fa differenza, non c'è buono, cattivo, c'è, è lì. E dà potenzialità e possibilità a tutti di vivere, di sentire. Certo, oggigiorno forse è anche difficile viversela con questa filosofia naturale spensierata, quando c'è è presente nei pensieri una qualche violenza, di una forzatura a dover trovare un obiettivo, dover essere qualcuno, doversi definire in qualche modo, quando basterebbe vivere. Ogni tanto quando tengo gli incontri di meditazione porto sempre a discussione di come i fiori siano degli insegnanti meravigliosi, perché sono così semplici, sono la rappresentazione, penso, perfetta della vita, sono così semplici, non chiedono, non pretendono, non tentano di controllare, e sono lì, fanno di tutto per essere la versione migliore di se stessa, di fiorire, sbocciare, cioè vengono dal suolo, vengono dal, tra virgolette, dallo sporco e non pensano a nient'altro che venire su, di fiorire, accettano tutto ciò che arriva, che sia un giorno freddo, un giorno caldo, che ci sia sole, che ci sia pioggia, notte, giorno, perché sanno che hanno bisogno di entrambe le cose. Non stanno lì a pensare, cacchio, mi devo fare bello, devo rincorrere le api, devo spargere il polline, veloce, no, devo produrne il più possibile, no. Sono tutti presi dal prendersi cura di loro stessi, in senso bello, sono presenti, si amano. Sono, diciamo, devoti a questa vita che li pervade. È come se la loro esistenza stessa fosse totale gratitudine al fatto di essere vivi e dicono, ok, sono vivo, faccio del mio meglio, senza pensare a controllare l'esterno. E sanno che facendo così le api arrivano un giorno. Non le chiamano, non urlano, ehi! Sono tutt'uno con la vita, sono tutt'uno con Alma, sono tutt'uno con questo respiro. E ora come ora potrei stare a parlare e a tirare in mezzo fiori o qualsiasi altro essere vivente per descrivere Alma o per descrivere modi diversi di vivere la vita. Invece vorrei proprio farvi sentire questa vita, farvi sentire, vorrei invitarvi ad ascoltare questa vita. E credo che non ci sia modo migliore di ascoltare la vita se non con una piccola meditazione sul respiro, proprio sull'anima. Piccolo intro prima di cominciare questa piccola meditazione di cosa voglia dire meditare? Meditare vuol dire focalizzare la propria attenzione, focalizzare il proprio ascolto, la propria visione su qualcosa. Insomma, vuol dire amare, meditare, nel senso, cosa vuol dire amare se non essere presenti, ascoltare, prendersi cura di qualcosa o qualcuno. In questo caso meditare significa proprio ascoltare, prendersi cura e amare se stessi, perché sto ascoltando il mio respiro, sto ascoltando la... Non mi piace suddividere l'anima facendo questa violenza, separando, dicendo la mia anima, però il mio respiro. È difficile non separare l'anima col cervello. Però nel momento in cui ascolto il mio respiro, meditando, sto ascoltando l'anima di tutti. È presente in tutti quanti, non è che il mio respiro è diverso da quello di un altro, è sempre lo stesso. E quindi invito a fare questa piccola meditazione, quindi per favore lasciate scendere gentilmente le palpebre, prendete un bel respiro lento e profondo, inspirando dal naso ed espirando dalla bocca. Continuate per favore a respirare in questo modo per un altro paio di respiri. E ogni volta che inspirate dal naso, sentite come nuova aria e nuovo spazio si generi dentro il corpo. E ogni volta che espirate, sentite come tutte le negatività e tutto lo stress esca dal corpo, di come i muscoli si rilassino, di come inizi a prendere coscienza dello spazio che occupa in questo mondo. Se non l'ho ancora fatto, a questo punto comincio a respirare solo col naso. Inspiro ed espiro solamente attraverso il naso. E porto la mia attenzione proprio su questo respirare, su questa manifestazione di vita, questa manifestazione di alma. E lo sento nell'espansione del corpo quando inspiro e nella sua contrazione quando espiro. Questa è vita, questa è alma, questo è il respiro, l'anima. Lo posso sentire, posso percepire in questo mondo tramite il movimento del mio corpo. E se un pensiero porta via la mia attenzione, non c'è problema, non giudico. L'importante è, con dolcezza e fermezza, di riportare l'attenzione sul respiro, su Alma, questa dolce presenza. Una dolce presenza appunto perché è un dolce movimento naturale che culla il corpo. Lo espande e lo contrae. Proprio come se un'alma mater stesse cullando il mio corpo. Posso vedere questo respiro anche come un'onda che arriva dal mare, sale sulla spiaggia, la carezza e torna indietro. Poi ritorna, mi carezza e torna indietro. Come se il respiro fosse l'acqua del mare, la spiaggia fosse il mio corpo. E ricorda, per favore, se ti accorgi che un pensiero ha portato via la tua attenzione, non c'è problema, va tutto bene. L'importante è, gentilmente e fermamente, senza alcun giudizio, di riportare l'attenzione sul respiro. Non ha importanza se la mia attenzione va via 10, 100, 1000 volte. L'importante è accorgersi, essere consapevoli che l'attenzione è andata da qualche altra parte e di riportarla sul respiro. È un po' come fare palestra. più mi abituo ad essere consapevole di dove sia la mia attenzione, e più facile mi verrà di accorgermi dove io la stia ponendo. Ascolto questo respiro. Amo questo respiro. Questo respiro che è con me da quando nasco fino al momento in cui muoio. Questo respiro, quest'anima, questo soffio, quest'alma è con me, con voi, dall'inizio alla fine. Anche nelle notti sole, anche quando mi sento solo, sola, il respiro è sempre lì. Alma, Dio, è sempre qui con me. Come si può non essere grati di questo respiro, di questo dono, di questa danza che si estende dalle più minuscole cellule del nostro corpo fino all'intero corpo, a tutti i corpi che ci stanno attorno. Quanto è intimo questo respiro, quanto è nostro. Ciò che è di più intimo c'è in noi, in ognuno di noi, in ogni essere vivente. E ne sono grato del dono della vita. Piano piano vi invito a riportare l'attenzione alle dita delle mani, dei piedi, alle mani e ai piedi stessi, e di cominciare a muoverli. Piano piano, non c'è nessuna sveglia, non c'è nessun impegno. Se c'è un impegno in questa vita è proprio quello di vivere, quindi per favore risvegliatevi con calma. Inizio a muovere anche le braccia, le gambe. Inizio a risvegliarmi senza essere violentato da una sveglia o da una luce improvvisa. Per favore aspettate ad aprire gli occhi. Fate sì che sia l'ultima cosa che muovete. Vi invito anche, prima di aprire gli occhi, di mettere le mani davanti a essi, così da poterli riaprire in una penombra e far sì che non siano pervasi violentemente da tutta la luce che c'è. Piano piano mi scrocchio tutto, mi risveglio. Allora, com'è stata questa meditazione? Com'è stato questo incontro con Alma? Con la vostra anima, con la mia, la sua, la tua, non è mica la stessa di tutti, l'alma è di tutti, l'anima è di tutti. Forse si dice la mia, la tua, la sua, perché siamo anche un cervello pensante, siamo anche un corpo, quindi si è abituati a suddividere. Siamo abituati ad essere diabolici, no? Diabolico vuol dire proprio di dividere. Dividere proprio la violenza in primis, che esiste un lato e l'altro. Quando no, questo mondo sì, si può dire che si hanno corpi diversi, cervelli diversi, occhi diversi, uno più bello dell'altro. Però il fatto è che Alma è una, è Alma in tutti noi, Dio è in tutti noi, il soffio è in tutti noi, il campo quantico è in tutti noi, comunque si voglia chiamarlo. Ed è sempre bellissimo incontrare, sentire, ascoltare Alma. Quindi, ora dopo questo incontro con la protagonista di questo programma radio, questa protagonista che tutti conosciamo bene, conosciamo. Conoscere un parolone, Massimo, di cui tutti sappiamo. Conoscere è un lavoro di una vita. Conoscere se stessi, conoscere la propria anima, conoscere Alma, un lavoro, conoscere Dio è un lavoro di tutta una vita. Lavoro. Meglio lavoro che travaglio, Massimo. Ora vorrei parlare di questa visione di cui accennavo nella didascalia della vignetta del programma. Di questa mia visione di come. Questa visione del viaggio di Alma, ecco. Del viaggio che fa Alma. Dalla mente, dall'altra dimensione fino a questa realtà materiale. Insomma, la metto giù così. In principio c'è Alma, c'è l'anima, c'è Dio. Continuerò a ripetere tutti i nomi in modo da poter farsi. Di fare del mio meglio per essere compreso. In principio c'è Alma, quest'anima. Quest'anima, diciamo, si trasforma in un'intenzione. Trasforma in un'intenzione che può essere un'intenzione di amore, può essere un'intenzione di cura. Sarà anche un'intenzione di violenza, sarà un'intenzione di rabbia, di tristezza, insomma. L'alma può trasformarsi, può prendere qualsiasi forma. Dopodiché da intenzione diventa attenzione. Intende e poi attende. Attende cosa? Attende un pensiero. Okay. Nel momento in cui Alma, o meglio, vi è un'intenzione all'interno di una persona, un essere vivente, poi diventa un'attenzione e poi un'attenzione nei confronti di un pensiero. Infatti, dopo aver nutrito un'intenzione, iniziano a formarsi dei pensieri che rispecchiano quell'intenzione, nel senso se la mia intenzione è di amore, saranno a nascere dei pensieri che possono essere immagini, possono essere suoni, possono essere gusti, profumi, dipende da come il corpo di ogni persona sia fatto, dipende dal DNA, ogni corpo è diverso, ogni corpo ha vissuto una vita diversa. C'è chi è, c'è un corpo che ha un orecchio migliore dell'altro, c'è un corpo che ha un gusto diverso dall'altro, c'è un corpo che ha un udito migliore dell'altro. E no, si creano questi pensieri. E questa attenzione si focalizza su un pensiero, sceglie uno di questi pensieri. E ogni pensiero, ognuno di questi pensieri ha una carica. Puoi definirla come una carica. Una carica che riflette l'intenzione. Quindi se Alma all'inizio, se l'intenzione iniziale è stata un'intenzione d'amore, si sono, diciamo, sono generati questi pensieri di amore. Amori su diverse scale, amori differenti. E ogni pensiero ha una carica d'amore differente. E questa carica si trasforma poi in un'emozione da emuovere, cioè da muovere verso. Da... E questa emozione è proprio quella carica che si trasferisce nel corpo, che inizia a muoverlo. Quindi inizia a manifestarlo, inizia a farlo fluire, a farlo vivere. Quindi il corpo si carica di questa energia e inizia a fare le azioni conseguenti a questa energia, a questa intenzione. Ad esempio, se l'intenzione era d'amore, inizierà, grazie a questa energia, a questa carica amorevole, inizierà a compiere un'azione d'amore. Non so se il pensiero scelto è stato un pensiero di una coccola, è stato il pensiero di un bacio, è stato il pensiero di una parola dolce. Perché l'intenzione d'amore ha fatto nascere questo tipo di pensieri, il corpo inizierà a muoversi per compiere questa azione. Che sia un bacio, che sia un ti amo, che sia un... una coccola, e così si manifesta nel mondo. Questo è il viaggio di Alma. Quindi giusto per fare un riassunto che spero, forse mi l'ho resa per renderlo un po' più semplice, insomma. C'è l'anima che diventa intenzione. E l'intenzione può essere di amore, di rabbia, di tristezza. Poi diventa attenzione, come se attendesse il pensiero. E nascono questi pensieri. Questa attenzione si focalizza su uno di questi pensieri, ne sceglie uno. Questo pensiero, con la sua carica, si trasferisce al corpo, si manifesta nel corpo come un'emozione. Questa emozione poi, muovendo il corpo, porta a compiere l'azione rappresentata nel pensiero. Come uno specchio, come dicevano gli alchimisti, as above, so below. Faccio quello che sento. Se mi comporto in un certo modo è perché c'è dentro di me un'intenzione, un pensiero che riflette quell'azione. Si dice che sono quello che penso, sono quello che faccio, sono le mie intenzioni alla fine, no? E questo è anche è così. Penso, teoria mia. E questo può essere anche un modo per vedere meglio il karma. Cioè, ad esempio, in versione, diciamo, karmica, ogni intenzione è un semino che viene piantato dentro di noi. Diciamo che ogni intenzione è un semino di alma, una parte di alma che noi inseriamo dentro di noi, nel fertile giardino della nostra mente, e se nutrito con pensieri, con cariche di pensiero, questo semino fiorirà e crescerà e si manifesterà come una pianta, come un'azione in questo mondo. Per questo anche questo è uno dei motivi col senno di poi per cui credo proprio di aver cominciato a meditare, motivi per cui ho voluto diventare insegnante di meditazione, perché la meditazione insegna ad essere consapevoli della natura della propria mente, ad essere consapevoli delle proprie intenzioni, di quello che c'è dentro. Quindi di essere coscienti di com'è che io stia usando la mia vita, cioè quali pensieri, quali intenzioni sto nutrendo. Com'è che sto... Al momento non trovo nessun altro vocabolo, però com'è che sto usando Alma? Com'è che sto usando la mia vita? Cos'è che c'è dentro? Certo, di solito dentro ci sono... c'è la storia. Quello che c'è dentro non l'abbiamo messo solo noi in questa vita. C'è il DNA, sono tutte quelle informazioni derivanti da... nostri ancestors, dai nostri antenati, ci sono le informazioni messe dentro dai nostri genitori, dai nostri nonni, dai nostri bisnonni, sono dentro informazioni culturali, dell'educazione, c'è dentro, sono eventi, traumi, c'è di tutto. Insomma, fino dagli 0 ai 4 anni non esiste ancora la neocorteccia nel cervello umano, non si è ancora sviluppato, e tutto ciò che accade in quei 4 anni di vita del bambino viene tutto immagazzinato direttamente nel sistema limbico. E dentro quei 4 anni c'è tutto quello che un bambino ha sperimentato, viene tutto messo dentro. E dopo i 4 anni, quando si sviluppa la neocorteccia, si diventa consapevoli. Quindi diciamo che si inizia a prendere responsabilità di quello, delle proprie scelte. Ed è anche per questo che è importante andare in terapia, andare da uno psicologo, comunque parlare di quello che si sente, perché ogni persona, ogni uomo, ogni donna, ogni umano ha 4 anni di vita che non sono stati digeriti e fanno parte di quello che ci muove, delle informazioni che ci muovono. Insomma, un bel potpourri. Quest'anima. Prima di andare avanti con questo discorso, una piccola pausetta di 3 minuti, 5 minuti, lascio questa bella musichetta che spero coadiuvi la vostra tranquillità della vostra serata. Eccomi qui di nuovo con voi. Quindi, quest'alma, quest'anima, i suoi tanti nomi. Allora, possiamo vedere anche diverse culture. Alma, possiamo vederla anche nella cultura indiana, come prana. Anche lì significa respiro, che si muove attraverso i nadi nel corpo. Alma possiamo chiamarla anche chi, in giapponese, possiamo chiamarlo anche chi, in cinese, che si muove nei meridiani, in questi corpi sottili che si pensa pregnino il corpo. Il bello è quasi un paradosso il fatto che si cerchi di spiegare un qualcosa, comunque identificare un qualcuno, un qualcosa, quest'alma, quest'anima, attraverso il cervello, attraverso la fisicità. Quindi si tenta di metterla in dei canali, si tenta di darle un nome, si tenta di dargli un aspetto, si tenta di materializzarla in qualche modo, quasi di possederla. Non si può aspettare dal cervello. E quindi è un bel cruccio quest'anima. E è un bel cruccio anche perché proprio perché siamo manifestazioni di quest'anima, viene anche sia da possederla, viene da possederla perché viene pensata come un qualcosa di separato da noi, quando no, siamo anima, siamo un'anima, ognuno di noi, ogni essere vivente è un'anima manifestata in questo mondo, cioè l'anima non è quest'anima non è separata dal corpo. Sì, è mind blowing, esplode il cervello a tentare di vederla così, però come può non essere così? Poi, alla fine, la violenza è proprio il tentare di separare o il tentare di controllare, il tentare di sottomettere qualcuno a pensarla allo stesso modo. Non è per niente il mio intento, anzi, il mio intento è di smuovere le acque, per portare un po' di questa dolce visione di quest'anima che tutto pervade, e cercare di dargli meno rappresentazioni possibili. O allo stesso tempo dargliele tutte, nel senso, ok, qual è il nome dell'anima? Il nome dell'anima è anima, alma, Dio, campo quantico, anemos, respiro, prana, chi. Ha tanti nomi, però è sempre lei, sembra quasi 1 più 1 più 1 più 1 più 1 più 1 fa 1, e quell'uno è Dio, più 1 che è chi, più 1 che è prana, più 1 che è anemos, più 1 più 1 più 1 alla fine fa uno, perché l'anima è una, sono tanti nomi diversi, o no? È un gran bel, essendo umano anch'io, cioè, essendo manifestato in questo corpo, la trovo anche difficile da non sembrare paradossale. Arrivati a questo punto, wow, penso di aver detto, almeno provare ad esprimere al massimo il mio punto di vista. E mi viene da dire che nelle prossime puntate andrò più a fondo continuerò il viaggio di... a narrare il viaggio di Alma e a parlare anche di Diego, di Karma, di... spero anche di... parlerò con anche ospiti magari di psicologia, di medicina, di olistica, per in modo da mettere in questo crogiuolo anche punti di vista non diversi, altri punti di vista che spero vadano a nutrire questo programma, proprio come Alma che nutre tutto. E da ruolo di insegnante di mindfulness che ho scelto, insegnante di meditazione e di pratiche di mindfulness come meditazione, un po' di yoga, tutte le meditazioni, esercizi di consapevolezza che vengono, veramente invito caldamente a provare a meditare, ad ascoltare quest'alma, in modo da smontare un po' da svestirsi di un po' di strati, di un po' di preconcetti, che la vita debba essere violata, separata, o debba essere rivestita di ruoli o di chissà che cosa, debba essere obbligata a seguire un percorso prescelto, che per ogni età ci sia un dovere, che per ogni luogo, posto, cavolo, siamo tutti qua, siamo tutti figli il corpo di Dio, siamo tutti figli di Alma, siamo tutti nutriti da Alma, siamo tutti uno, perché cavolo dobbiamo fare violarci a vicenda e violare noi stessi. Anche questo è un tema che vorrei parlare nei prossimi episodi, se vedo che questo programma parla di violenza e amore, di due opposti. Amore come accettazione e violenza come separazione. Sono, credo, degli argomenti molto interessanti, importanti, di cui parlare. Che posso dire d'altro? Sinceramente la mia scaletta per la puntata è finita. Veramente, quello che vi invito a fare è rallentare, trovare dei momenti durante il giorno in cui rallentare o addirittura, tra virgolette, fermarsi e ascoltare il respiro, ascoltare Alma, portare via l'attenzione dai pensieri, portare via l'attenzione dalle emozioni, perché sono malvagi, cioè sono un aspetto dell'anima, sono un aspetto di Alma. Ascoltare il respiro per tornare a casa, per ritornare ad Alma. Quando si dice tornare a casa vuol dire ritornare a quello che sei in principio, vuol dire tornare ad Alma, tornare a Dio. C'è una bellissima frase che non mi ricordo più dove lessi, mi ricordo che ero in Portogallo, credo, sì. E diceva: in silenzio ritorno a casa. È bellissima, è fortissima come frase. Cioè che nel momento in cui mi fermo, chiudo gli occhi, ascolto e porto l'attenzione al respiro, in quel momento sto tornando a casa. E non vuol dire che sto morendo, non me ne sto andando, cavolo, perché essere qua è un dono. Ma in quel momento sto tornando. tornando veramente a casa. Dove ogni bisogno cessa. Non che i bisogni siano un male, perché siamo anche un corpo. I bisogni devono essere soddisfatti essendo manifestati come dei corpi. Però in quel momento, quando si è in silenzio, quando si è immobili a meditare, si ritorna a casa. Il materiale, il fisico, non ha più parole. C'è solo silenzio. C'è solo il respiro. C'è solo alma. Nessun dovere, nessuna sveglia. E sono a casa.